Ritroviamo Mattia Torre perché torna in scena. Buongiorno. Ciao caro, ben sono ritrovato. Diventato una specie di stalker della vostra radio. Stavolta è la volta di 4-5-6, uno spettacolo che ho amato e che vorrei tanto portare in radio, nonostante il finale abbia delle necessità visive importanti, però comunque si potrebbe provare. Allora, 4-5-6, come lo descriveresti in breve a chi ci ascolta? Ma diciamo è uno spettacolo assurdo, uno spettacolo molto divertente che racconta questa famiglia estrema, diciamo, in un sud immaginario, una famiglia estremamente violenta in cui tutti odiano tutti, è un po' la metafora di questo paese, diciamo, di questo paese disarmonico, e parlano una lingua che non esiste, sono dei barbari, si scagliano addosso questa salama appesa al soffitto, c'è un sugo di pomodoro che va avanti da 5 anni perché era il sugo della nonna morta che loro continuano a tenere lì come sugo perpetuo. E diciamo che appunto nella tragicità di quello che rappresenta, poi invece è uno spettacolo molto divertente per le cose che accadono e che non voglio anticipare. Senti, lo spunto iniziale qual è stato? Ma era proprio una riflessione appunto su quanto questo paese, per esagerare un po', sia quasi più una somma di individui che non una vera comunità, ecco, l'idea che noi non abbiamo obiettivi comuni, che non riusciamo a metterci d'accordo su nulla e che l'altro è sempre un potenziale nemico in Italia, non c'è un senso di vicinanza, di concordanza, eccetera. E allora mi piaceva raccontare che anche nella famiglia, che invece dovrebbe essere, come dire, il posto dove più si è compatti, invece pure lì vivono i conflitti più forti, e allora quel piccolo nucleo familiare diventa un po' una metafora. Senti, il lavoro sulla lingua com'è stato? Ma è stato casuale, perché io inizialmente immaginavo un qualche dialetto del sud che però non conosco, quindi goffamente iniziavo a scrivere e piano piano mi rendevo conto che c'erano dei termini, delle espressioni che erano inventate e che poteva essere divertente costruire tutta una lingua e tutta una grammatica, e quindi poi nel tempo l'ho fatto. Ed è buffo, perché i primi minuti il pubblico rimane un po' spaesato, quando esce dalla sala poi invece parla così per 2 settimane, quindi questo è un effetto che non speravo tanto, diciamo. Senti, 3 attori che fanno parte della vostra cerchia, bomba, com'è lavorare con loro? Beh, vabbè, è come guidare una Ferrari, insomma, avere quelle, diciamo, appunto, questi attori così potenti, così vicini idealmente, no? Perché poi a loro volta, come dire, condividono l'intento un po' dello spettacolo, il senso dello spettacolo, e quindi mettono tutto quello che hanno. Massimo De Lorenzo e Carlo De Ruggeri li abbiamo conosciuti con Boris, Cristina Pellegrino, un'attrice formidabile che come dire sta per esplodere, secondo me, perché è tra le più brave attrici che abbia mai conosciuto in vita mia, e Michele Nani è un altro attore straordinario, insomma è un gran piacere lavorare con loro ed è una grande goduria per il pubblico. Senti, questo progetto Mattia Torre all'Ambra Iovinelli, che sta succedendo? Beh, intanto mi dà un'enorme voglia di scrivere nuove cose, sta salendo una roba per il teatro preoccupante. No, è andato così bene, io appunto mi rivolgo a chi ha visto Migliore qui e ora e ne è stato felice, chiedo un atto di fiducia anche su quest'ultimo spettacolo, poi per un po' non rompo più le palle a nessuno, perché sto diventando veramente uno stalking, sono sempre qui a promuovere qualcosa, e no, è stata una grande festa, io sono molto molto felice. Bene, allora ricordiamolo, da oggi fino al 12 febbraio, 4-5-6 di Mattia Torre con Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggeri. E a questo punto ti chiedo l'impegno, Mattia, di una registrazione da poter programmare qui prossimamente. Ma certo, assolutamente, ben volentieri. Okay. Poi il teatro in radio mi esalta. Ok. Sarà l'ennesima, come dire, l'ennesimo stalking. Va bene. T'abbraccio, grazie a tanti a tutti voi. Grazie. Ciao. Ciao.